tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, più di rigore che mai l'appuntamento di oggi con il calcio, l'appuntamento di martedì con il calcio internazionale a poche ore da Italia-Brasile. Siamo già in collegamento con il nostro ministro degli esteri. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Fabio Tavelli, al quale domando inizialmente per approcciare questa sfida, per creare un minimo di suggestione, perché poi è vero che è amichevole, è vero che in palio c'è soltanto il prestigio. Un ascoltatore, Luca da Bergamo, ha appena scritto che per dare sale alla sfida di stasera lui proporrebbe che chi vince si prende a Mauri, senza accento lo scrive, tra l'altro questo mi piace anche di più. Ma al di là di questo non c'è nulla in palio, e allora per capire che cos'è questa partita che è stata definita il derby tra le nazionali del mondo, c'è una parità assoluta di vittorie e addirittura di gol segnati. Hanno vinto 5 partite l'Italia nella storia, 5 partite il Brasile, 2 sono stati pareggi, uno di questi due però è finito ai rigori, quello del 94 ai mondiali, e questo spiega perché il Brasile ha un titolo mondiale in più, 5 contro i 4 italiani, 19 gol fatti e subiti per ciascuna delle due, insomma una parità totale. Allora la prima domanda è: Per un ragazzo, ex ragazzo, insomma, ex. Per uno ex. Se parli di me, ex. Parlo di te, nato alla fine degli anni 60, qual è Italia-Brasile? Beh, per me è certamente quella dell'82, nel senso che quel pomeriggio nel quale confesso negli ultimi minuti di avere l'ultimo minuto di non averlo visto, per aver spento il televisore. Per la paura che questi segnassero ancora un gol. È una cosa. Io nell'82 avevo 13 anni, quindi ero già in grado di capire. Ricordo mio padre, aveva una tabaccheria e ci mandò mia madre, ovviamente quel pomeriggio tornò a casa, mangiammo un'anguria davanti, un'anguria intera, io e lui davanti alla televisione, cambiando televisore dal primo al secondo tempo, da quello del salotto a quello della cucina, arrivando poi lui fumando un sigaro, io semplicemente contando i pezzettini che erano rimasti di anguria, cercando di capire dal televisore dei vicini sul balcone se fosse finita o no. Ecco, insomma, sono scene irripetibili, no? Per cui quella fu. E credo che 50, 55, quanti si era allora, milioni di italiani potrebbero raccontare esattamente che cosa fecero quel pomeriggio, come lo vissero. Mi ha molto colpito leggere ieri in un'agenzia che Gianni Rivera, che è stato per me almeno il più grande calciatore italiano, come minimo del dopoguerra, poi sull'anteguerra bisognerebbe documentarsi meglio, ma non sarà mai possibile per ragioni di fonti, per l'appunto, soprattutto di fonti di immagini. Gianni Rivera, che comunque è sempre stato un talento a sangue freddo, non particolarmente emotivo, leggere che lui ieri ha dichiarato: la cosa che mi fa più male è sapere che contro il Brasile io e tanti altri della mia generazione non ci possiamo più essere, perché domani il mio sogno sarebbe di giocare a Londra contro il Brasile. Vuol dire che la suggestione di questa sfida per chi l'ha vissuta in prima persona è ancora insopprimibile, probabilmente non passerà mai. Ma guarda, io trovo che la grandezza di ognuno a volte sia davvero anche negli avversari che affronti, e in questo caso la grandezza di Rivera, che prescinde comunque da queste parole che sono meravigliose, è anche questa, e fa diventare il Brasile ancora più grande, per cui confrontarsi, non lo so, nel basket con i Boston Celtics, piuttosto che nel calcio con Real Madrid, o nel tennis con i più grandi, cioè chi ha giocato contro Rod Laver evidentemente, o contro Bjorn Borg, lo ricorda come un qualcosa di speciale. Ci sono quelle squadre o quei campioni che rendono speciale anche l'avversario. Io penso anche che ogni avversario di Muhammad Ali che sia andato al tappeto sia comunque fiero di aver incrociato i guantoni con Muhammad Ali. E non so se chi perde una gara dei 100 metri da Usain Bolt sia così contento di vederlo sfrecciare così lontano, però il confronto con queste entità superiori che sono il Brasile, perché il Brasile è il Brasile a prescindere da chi ci giochi, sembra un modo di dire, ma certamente non lo è. Anche un Brasile non esaltante, tu prima mi hai chiesto qual è l'Italia-Brasile, io ricordo, certamente tu lo ricordi bene, il Brasile del 78 non fu una nazionale indimenticabile, quella in Argentina, però ricordo quelle due sassate da lontano di Dirceu e di Nelinho con Zoff un po' titubante, così come contro l'Olanda qualche giorno prima. Insomma, era comunque il Brasile nel quale giocava ancora Rivelino, per cui anche nelle loro versioni minori, cosiddette minori, questi sono dei maestri, sempre dei capolavori. Non c'è nessun dubbio. Io credo che ci sia da un lato una suggestione che è rimasta, ed è rimasta anche per la, come dire, rarefazione di queste sfide. Cioè, tu parlavi prima, per esempio, del Real Madrid. Beh, ormai il Real Madrid lo becchiamo due volte l'anno, sì, in media, sì, no? Sì. A parte il vederlo tutti i sabati o le domeniche sera. È vero, vero, vero. In TV, però, le squadre italiane, in fondo un'Italia-Brasile non va in scena da 12 anni, un'amichevole, da 15 se parliamo dell'ultima partita ufficiale, che fu per l'appunto la finale di Pasadena. E questo è, secondo me, un fattore che mantiene intatto il fascino, per fortuna. Indubbiamente meno, è che non c'è più il mistero. E cioè, io ricordo negli anni 50, quando il mio primo Italia-Brasile fu un Italia-Brasile amichevole a San Siro, ricordo che era la scoperta di questi giocatori, che poi erano le prime dirette televisive di quel tempo. Pepe, non so, era un mancino che calciava alla velocità della luce, per dire, a parte Pelé. Erano anni in cui le amichevoli erano anche quelle di fine campionato, non era magari il Brasile, era una squadra di club. Mi raccontò Berzotto una volta che nell'estate del 57, credo, venne il Botafogo a Torino in tournée in Italia, giocò a Torino al Philadelphia sul campo del Torino contro una mista Juve-Toro, e i giocatori della Juventus e del Torino scoprirono in onda, cioè sul campo, che la coppia di destra dell'attacco brasiliano era Didi Garrincha. E poiché avevano stabilito di giocare una mista Juventus-Torino sia nel primo che nel secondo tempo, cambiandosi tra loro, quando a fine primo tempo l'esterno sinistro e il mediano della mista torinese dovevano essere cambiati dagli altri, i due che dovevano subentrare dissero: ma perché non continuate voi? Perché Garrincha gli ha letteralmente fatti impazzire, e la regia di Didi era qualcosa di miracoloso. Mi riallaccio oggi per dire che scorro le formazioni e ci sono giusto un paio di nomi che noi non abbiamo sott'occhio tutti i giorni, se no ormai giocano qui nel cortile, no? Sì, giocano quasi tutti nel campionato italiano, a parte Marcelo che gioca nel Real Madrid, Lucio che gioca in Bundesliga. Però l'abbiamo visto, stravisto. Sì, ma perché magari ti capita di non vedere più tanto Gilberto Silva, che comunque hai visto per tanti anni, perché adesso sta nel Panathinaikos, ma lo stesso Elano è uno che si può vedere tranquillamente nel Manchester City, quindi per tacere poi dei giocatori del campionato italiano. Sì, certo, c'è meno mistero. Ripeto, credo sia proprio intatto il fascino di questo nuovo. Per chi è comunque, ma in questo senso penso anche che chi sia nato negli anni, non dico 2000 perché magari è un po' piccolo, ma insomma anche a fine anni 90, cioè il Brasile di Ronaldo, il Brasile, magari anche solo per sentito dire, il Brasile di Zico dell'86, il Brasile di Zico dell'82, insomma sono onde lunghe che per fortuna il tempo ha preservato. Credo anche che, non so, ma le qualificazioni per i mondiali nel gruppo sudamericano, che vengono magari un po' meno pubblicizzate da noi, ma hanno comunque un audience importante, anche se vengono trasmesse a orari difficili. Seguire la Coppa America resta comunque un evento importante, anche perché magari ti capita di scoprire il giocatore nuovo che magari dopo un anno o due vedi nel campionato italiano o vedi nei campionati più importanti d'Europa. Il fatto che il Brasile non sia una nazione europea fa sì che non si corra il rischio o aver la possibilità di incrociarlo anche negli europei, quindi è vero, più passano gli anni e più il desiderio di confrontarsi col Brasile aumenta. Sul display appaiono molti messaggi, molti amarcor, no, di quel pomeriggio. C'è uno ascoltatore di Alessandria, Federico, che stava facendo un campo estivo, era militare tra gli Alpini, e sui monti della Lunigiana riuscirono con una mini TV portatile, no, a sistemarsi in maniera da vedere almeno un pezzo di partita, e tanti altri che stanno... Farci una trasmissione, cioè, due. Solo leggendo i messaggi. Anche due, io credo, perché appunto se si rimescolano le suggestioni, è ovvio che non si finisce più, ed è ovvio anche che sono, credo, i momenti più piacevoli, no, di questa nostra passione. Mi corre però l'obbligo, visto che è l'ultima agenzia appena battuta dalla TV, dall'ANSA, senza volete creare alcuna difficoltà. La notizia è questa: diretta televisiva a rischio per gli abbonati di Sky in occasione del derby Milan-Inter di domenica prossima 15 febbraio. A quanto si apprende è un'agitazione organizzata per protestare contro la politica del personale dell'azienda che non ha rinnovato centinaia di contratti a termine. Centinaia. Qui c'è scritto sull'ANSA: centinaia di contratti a termine, sta surrettiziamente mettendo in immagine le lavoratrici al rientro dalla maternità. Allora, non è certamente questa la sede per entrare nel merito della vicenda, ma siamo a rischio di derby domenica sera. Il derby si gioca, però lo vedono gli 80.000 di San Siro. Torniamo al discorso della suggestione. No, attenzione, no, una cosa importante, adesso io... Oggi per fortuna questa mattina come massimo impegno è stato portare Alice a scuola e andare in piscina, per cui sono, diciamo così, che sono un po' digiuno di notizie fresche, ma cioè, il derby oltre che giocato sul campo viene anche visto, nel senso non mi pare in dubbio, se non ho capito male. Diretta televisiva a rischio per gli abbonati di Sky TV in occasione del derby Milan-Inter. No, è certamente spiegato male, al di là poi delle centinaia di contratti, che mi sembra eccessivo. No, il limite va senza commento, ma non è assolutamente ho fatto bene a leggere questa agenzia, perché almeno gli abbonati hanno avuto una prima rassicurazione. Cioè, se è successo, a meno che non sia successo qualcosa che però mi sfugge molto, e guardo adesso il display del telefonino, non ci sono telefonate, non ci sono chiamate alle armi, insomma, no, recenti. No, direi proprio di no, e comunque credo e mi auguro che la ragionevolezza poi da ambo le parti prevalga, e che quindi tutto venga, come dire, ricucito. Chiudiamo questa parentesi e riapriamo invece il capitolo internazionale. Poi ci sarà ovviamente spazio per il Chelsea dopo l'intervallo, perché è la vera notizia del giorno e di queste ore. Volevo concludere ancora in questo paio di minuti con le suggestioni, adesso non più legate a Italia-Brasile, ma ad altre due grandi amichevoli che si giocano domani, mi pare, entrambe, che sono Francia-Argentina e soprattutto direi Spagna-Inghilterra. Sì. Beh, intanto Francia-Argentina a me interessa moltissimo, e se non ci fosse, per fortuna c'è la possibilità di vederle entrambe, ma visto che giocano in due giorni diversi, cioè Francia-Argentina è una signora amichevole, perché intanto è il caso di cominciare a testare il lavoro di Maradona, adesso non più così a scottadito come accadde a Glasgow, dove Maradona era arrivato da poco. Maradona ha avuto tempo e modo di vedere tutti i giocatori, di incontrarli, di conoscerli, di parlargli, di fargli capire quello che vuole da loro, e quindi è una bella riprova contro una squadra molto esperta, una squadra forse fin troppo esperta come quella di Domenech, per non apparire un po' vecchiotta, e comunque, insomma, l'ha definita Maradona un possibile quarto di finale in qualsiasi competizione. Io credo che sia anche un po' di più. Io continuo a pensare che l'Argentina sia la squadra più forte del mondo, non da oggi. E che in questo momento credo proprio di sì. Sì, e che se Maradona non la, come dire, guasterà con la sua preponderanza dal punto di vista del personaggio, così questa è una squadra che arriverà a maturazione piena nel 2010. E ripeto, secondo me era già fortissima nel 2006, però arrivando a maturazione definitiva nel 2010 io credo che sia la favorita numero uno a prescindere dei prossimi mondiali. Poi chiaro, c'è la suggestione di vedere la Spagna che è campione d'Europa, c'è Fernando Torres che torna, c'è Fernando Torres che segna sempre negli ultimi minuti con Liverpool, curiosamente entrambe le volte di testa, c'è il cap numero 108 per David Beckham, diciamo che ce n'è a sufficienza per due belle partite. Come no? Che dire del Brasile messicano, scrive Carlo. Rivelino, Gerson, Tostao, Pelé. Ahimè, ho tradito la mia data anagrafica, ma io ho fatto di peggio, Carlo. Le ho parlato della sfida del 56. Ricordo che lo stopper brasiliano, allora noi lo chiamavamo così, anche se era un centrale, loro facevano la zona, non hanno mai rinunciato a quel tipo di modulo difensivo, si chiamava De Sordi, e lasciò campo, insomma, diciamo che non fece una gran figura contro Virgili, che era il centravanti della nazionale italiana, che gli segnò due gol, e il terzo fu un autorete dello stesso De Sordi. L'attacco del 70 da destra a sinistra, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé e Rivelino, non credo abbia più avuto tanti eguali, e semmai aveva avuto dei predecessori con l'attacco del 58 ancora più ancora più stupefacente, perché la Garrincha di Diva va Pelé Zagallo, e credo che, ecco, forse questo è il numero uno, e quello del 70 il numero due. Due notizie in ambito azzurro. La prima è molto bella, è un comunicato della federazione: è stata istituita una borsa di studio per giovani medici ricercatori sulla tematica della SLA, della sclerosi laterale amiotrofica, istituita dalla FIGC, dicevo, per onorare la memoria del professor Vecchiette, di cui oggi ricorre il secondo anniversario della scomparsa. Vecchiette è stato per moltissimi anni il medico sociale della nazionale italiana, per esempio, ma non soltanto lì, nella spedizione spagnola. L'altra notizia è che Casiraghi, CT dell'Under 21, ha, come dire, l'arrabbiatura a scoppio ritardato, perché ieri Balotelli ne ha combinato un'altra delle sue, stavolta in nazionale, stavolta all'Under 21 anziché all'Inter, è arrivato in ritardo in ritiro, si è presentato in ritardo all'allenamento. Ieri Casiraghi aveva chiuso il caso con un abbraccio, stamane, ripeto, a scoppio ritardato, ha detto testualmente: vedere un ragazzo del suo talento che ha 18 anni ha di questi comportamenti sia in nazionale che nel club mi fa incazzare, frase testuale usata da Casiraghi, spero che cambi per il suo bene. Torniamo in campo internazionale, anche se pure questo lo era, con la vicenda Scolari, licenziato ieri dal Chelsea, e con un'eredità aperta a molte soluzioni, Fabio. Sì, Rijkaard sembra il favorito, almeno questa mattina, per alcuni giornali inglesi. Pare che abbiano iniziato i colloqui con Frank Rijkaard. Ma due cose: intanto che ai primi di gennaio molti bookmakers avevano iniziato ad abbassare di molto le loro quote per uno Scolari assente nell'ottavo di finale contro la Juventus. Lì per lì sembrava una cosa da non prendere tanto in considerazione, noi stessi gli abbiamo dato uno spazio non altissimo, dando la notizia, certo, per documentarle la cosa, ma senza crederci più di tanto. E invece le cose si sono complicate. La seconda è che si conferma il cliché inglese, a prescindere poi da chi sono i proprietari, e quasi sempre non sono inglesi, cioè del fatto di licenziare un allenatore prima di averne assunto un altro. Tu ti ricorderai, sì, certamente, a inizio campionato, quando saltarono un paio di panchine quasi subito, una di queste fu quella del Newcastle con il tira e molla con Kevin Keegan e quant'altro. La stessa cosa sta accadendo al Chelsea, ed è una tradizione che non mi pare abbia molto seguito negli altri campionati, nel senso che ad esempio il Real Madrid, quando ha cacciato Schuster, il pomeriggio stesso ha presentato Valderramo, certo, l'ha coperto. E invece gli inglesi fanno così, credo per un motivo abbastanza semplice, al di là delle loro tradizioni che comunque sono importanti, e cioè che tutte le squadre nella loro rosa, nel loro staff tecnico, hanno, oltre alla figura dell'allenatore manager, che appunto perché manager si occupa anche di mercato e di cose meno strettamente legate al campo, hanno questa figura che è la figura del coach, cioè del classicamente allenatore, cioè di quello che va direttamente in campo. È la figura che interpretò Carlos Queiroz per Ferguson al Manchester United, ed è la figura che Ray Colin Wilkins, che certamente gli ascoltatori ricordano per la precisione dei lanci quando giocava anche nel Milan di Lidholm, era chiamato il rasoio, uno dei non moltissimi inglesi a far bella figura nel campionato italiano. Ebbene, Wilkins ha preso in mano la squadra e lui è il classico coach, cioè l'uomo di campo, cioè quello che con la tuta va in mezzo al campo a spiegare le cose ai giocatori. E questo lascia alla società il tempo di maturare una scelta più per un manager, sapendo che comunque le cose di campo le gestisce il coach. Questo è molto interessante. In questo caso lo fa Wilkins. Molto interessante, cioè c'è una copertura, no? Una copertura aziendale, come dire. Diciamo che è un po' diverso dal secondo, mentre il secondo da noi in Italia fa da apprendista, no? È certo. Quello che, non voglio dirti che fai cross, però diciamo che ha un utilizzo diverso. Sì, ha un ruolo. Un ruolo diverso, non sono moltissimi i secondi che poi hanno fatto una grande carriera, al punto che c'è proprio la carriera del secondo, cioè ci sono i secondi storici, mentre invece lì c'è il coach che può anche prendere in mano la squadra, visto che adesso non c'è da ricostruire. Dal punto di vista manageriale il mercato è chiuso, c'è un po' più di tempo per trovare un manager nuovo. Comunque, mentre il coach Wilkins va avanti con il lavoro ordinario. Secondo il Times i favoriti sono Rijkaard e Mancini. Rijkaard in assoluto anche secondo i bookmaker, perché lassù figuriamoci hanno già cominciato a scommettere. Secondo il Daily Mail è Iddink, il CT nazionale russa, che ha già fatto sapere che verrebbe anche, ma a patto di non lasciare la Russia, quindi part time, quindi credo che non sia praticabile. Secondo l'Independent sarebbe Grant, e cioè quello dello scorso anno. E poi va bene, per il futuro ci sono tante altre soluzioni che vengono avanzate, che staremo a vedere. Un altro capitolo, magari l'ultimo di giornata, potrebbe essere sul fatto, sulle prestazioni di Cudicini. Mi pare che Cudicini Junior ha cambiato casacca, ma non ha smesso di... No, non solo, lui tra l'altro nelle poche, perché in realtà non sono state tantissime apparizioni con il Chelsea, lui ha sempre avuto una grande dedizione, una grande applicazione, si è sempre fatto trovare pronto, non è stato fortunatissimo perché tante volte si è infortunato anche contemporaneamente a Petr Cech, ma ha preso il posto di Gomez, che è una delusione totale in porta del Tottenham. Molti punti il Tottenham inizio stagione li ha lasciati proprio per la goffaggine di Gomez, che è un portiere che anche fisicamente risulta simpatico perché è un po' cicciottello e quant'altro, però francamente qualche volta lascia desiderare. Cudicini ha fatto una paratona nei minuti di recupero su Bentner nel derby contro l'Arsenal, e io credo che lui potrebbe restare tanto tempo ancora in porta al Tottenham. Non è più giovanissimo, ma non è nemmeno da, come dire, da buttare dal punto di vista del anagrafico, e quindi credo che sia la dimostrazione che allenandosi seriamente, credo anche avendo uno stile di vita un po' più morigerato di molti giovani giocatori che tipo, hai anche tipo anche appena uno appena citato, sì, incidentalmente, insomma, sia la strada sia anche un esempio, perché per avere una carriera lunga ovviamente ci vogliono molti fattori, però se ti aiuti evitando certi strapazzi o certi stravizi, naturalmente hai qualche anno di carriera in più, e quindi sono molto contento. Evidentemente, insomma, il filone dal quale è nato Carlo Cudicini era un filone buono, ed era il filone del papà, e quindi questo è merito della famiglia, ed è anche merito di Carlo, ovviamente. Grazie a Fabio Tavelli. A voi, buona giornata. Chiudiamo questo appuntamento settimanale, che poi non è detto che non possa avere un'appendice domani o nei prossimi giorni. Stanno scorrendo su Sky TG24 immagini storiche di Italia-Brasile. Scrive Omar, per esempio: ma perché quello che è stato, partite, allenatori, giornalisti, sembra sempre meglio di quello che c'è ora? Non è una forma di nostalgia? Ma sì, può anche essere una forma di nostalgia, però in certi casi è semplicemente una ricostruzione. Ci sono state nel calcio, come nella musica, come nella politica, come in qualsiasi cosa al mondo, nella letteratura, ci sono state delle età dell'oro, altre torneranno. Per il Brasile, più che per l'Italia, per il Brasile, secondo me l'età dell'oro sono state più divertenti rispetto a quelle che c'è oggi. Ricordava prima Fabio Tavelli di una nazionale mediocre del Brasile, per esempio nel 78, e invece poi ci fu una grande nazionale dell'82 che però non arrivò al traguardo. Quelle del 58 e del 70 furono due nazionali assolutamente stratosferiche, e questo non è questione di nostalgia o di ricordare più o meno bene, è questione di rivedere semplicemente quelle partite e quei campioni. Sentirei la doppia vigilia dei due commissari tecnici, innanzitutto quella di Marcello Lippi. Una volta che mi capita di giocare contro il Brasile, non l'ho mai giocato né con la nazionale brasiliana né con una squadra di club. E per me, per quelli che come me, insomma tutti quelli che amano il calcio, abbiamo sempre considerato il Brasile il calcio, no? Perciò giocare questa partita è non lo so io se è il derby del mondo, mi piace come definizione. Questo era Lippi, adesso sentiamo Dunga. Io devo chiamare il giocatore e dopo si sapeva che dovevamo chiamare due settimane prima. Purtroppo ho avuto l'infortunio di Luis Fabiano, che è scarpa d'oro in Europa, e noi avevamo chiamato Adriano, che è stato capocannoniere nella Coppa America, campione della Coppa di Confederazione, e Pato, che sta facendo benissimo. Abbiamo avuto questo infortunio, abbiamo chiamato e purtroppo la Juventus non ha ceduto, e dobbiamo starsi alla legge. E questa era la ricostruzione di Dunga sulla vicenda Amauri, sulla mancata non convocazione, perché poi è stato convocato, sul mancato arrivo di Amauri. Dunga ha poi aggiunto a microfoni già chiusi che lui a suo tempo non si sarebbe mai fatto sbarrare la strada per la nazionale da una società. Velocemente un ascoltatore, perché è in attesa da molto tempo e siamo vicini all'intervallo. Fabrizio della provincia di Como, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie per avermi richiamato. Dica. Lei è già passato sull'argomento 70, no? Quello famoso Italia-Brasile dove abbiamo preso quattro pappine che vi bruciano ancora adesso. Io ho dei ricordi estremamente nostalgici perché avevo solo 13 anni, l'ho visto con mio padre, una partita incredibile, loro erano di un'altra galassia, non di un altro pianeta, erano troppo troppo forti. Boh. Però volevo ricordare quei mondiali che le squadre che si qualificavano per la fase finale erano solo 16. Sì, ma certo. 32 o 24. Ma non c'è dubbio, c'era un'altra selezione. Ecco, per esempio, questo qualitativamente è già un discorso da fare. Su quella finale, poi io continuo a pensarla come la pensa, per esempio, uno come Roberto Boninsegna, anche uno come Gianni Rivera. Eravamo rimasti in sospeso su quel. Siamo in sospeso da. Dunque dal 70, sono 39 anni quasi che siamo in sospeso su quel 4-1 in quella finale, tra chi, finale Brasile-Italia, tra chi è convinto che comunque non ci sarebbe stato nulla da fare contro quel Brasile stratosferico e chi, come Rivera ma soprattutto come Boninsegna, ricorda che in ogni caso si tornò in campo per la ripresa sull'1-1 e che nei primi minuti del secondo tempo l'Italia riuscì ancora a rendersi pericolosa. Probabilmente la differenza, per quel che ricordo io, la vera differenza fu la condizione fisica, perché l'Italia era reduce, aveva avuto un giorno di riposo in meno, ma soprattutto era reduce dai 120 minuti irripetibili e stranianti, però oltre che faticosi, contro la Germania quei supplementari Italia-Germania 4-3, insomma, che hanno fatto un pezzettino e mica tantoino di storia del calcio. Poi ci sarebbe anche tutta la vicenda secondo cui non solo Valcareggi avrebbe potuto, che si è portato ormai da qualche anno nella tomba questo segreto, avrebbe potuto non solo provare a cambiare qualcuno dei più esausti allora, ma soprattutto avrebbe potuto provare a far giocare un certo Rivera che in quella famosa staffetta di mondiale di quegli anni, di quell'anno, era un po' come cavallino handicap e lui era cavallino, insomma, ogni volta che entrava. Tant'è vero che i brasiliani furono poi, sia prima della partita che dopo, alla fine, lo dissero chiaramente, cominciare a Pelé, erano semplicemente stupefatti dal fatto che l'Italia aveva rinunciato a Rivera e lo aveva poi mandato in campo sull'1-4. Negli ultimi ridicoli, sei minuti ridicoli non per lui, che comunque nemmeno allora, per dire com'erano i calciatori di allora, nemmeno allora rifiutò questo coinvolgimento in un'umiliazione. Mi immagino, Panucci oggi se venisse messo a sei minuti dalla fine di un Brasile-Italia 4-1. Ho detto Panucci e ho detto Rivera, con tutto rispetto per Panucci che è un signor giocatore. Sentiamo Pier Giorgio dalla provincia di Padova, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, signor Galanzini. Dica. Niente, io volevo ricollegarmi al discorso di ieri ancora sugli arbitraggi. Sa che sentivamo un po' la mancanza, eravamo preoccupati. Immagino. Ero preoccupato, seriamente. Ma tutti invocano la Monviola, ma nessuno dice che il vero aiuto è da parte dei giocatori stessi, che nessuno cerca di aiutare l'arbitro. Tanto è vero che in ogni partita ci saranno un minimo una decina di simulazioni tra vari falli in area, tra arti spezzati e gli dicendo. Però nessun arti nel senso che che prendono qualche calcetto e rantolano a terra per dei minuti, poi dopodiché si alzano subito e corrono. Quindi i giocatori stessi che si definiscono professionisti in questo punto per me non sono assolutamente professionisti, perché nessuno va ad aiutare l'arbitro in una certa, questo è oggettivamente vero Pier Giorgio, ed è uno dei grandi problemi che affliggono non da oggi il calcio. Io sinceramente oggi speravo di fare una puntata oasi, no, ma mi sembra che sia inevitabile, no, ripiombare la realtà. Ancora un tentativo. Nicola, Genova, buongiorno. No, Buongiorno. Dica. Mi dispiace per lei, ma mi collego a quel signore di prima, sì. Per cui l'oasi attendiamo più avanti. Io mi volevo solo chiedere questo, il suo parere. Allora, io mi domando, io sono genovano, sì. Totti è un grande campione, va tutelato, però tutti questi calcetti che subisce, poi fa queste cadute pirotecniche gratuite, via dicendo, che esempio dà? Cioè, da grande campione dovrebbe evitare queste cose qui, no? Penso io, dovrebbe dare un esempio ai ragazzini e dire bisogna giocare con onestà, ok? Poi onestà è una parola impegnativa, Nicola? Onestà è una parola impegnativa. Dico, poi il signor Criscito ha fatto la stessa cosa domenica, no? Se la sono un po' divisa la partita, un po' Totti, un po' Criscito, bene. Però poi mi vedo la domenica sportiva che mi vedo solo il replay di Criscito e di Totti non ne parla nessuno. Nicola, Nicola, la prego, guardi le trasmissioni che crede, le interpreti come vuole, ma non è un buon motivo per flagellare qualche altra decina di migliaia o centinaia di migliaia di ascoltatori, no? Secondo me su queste cose lei ha sollecitato un'opinione. Io credo che non da oggi Totti sia di tanto in tanto inutilmente teatrale, e su questo credo che si possa convenire, e possano convenire anche i giocatori i simpatizzanti della Roma. Dall'altro lato, sapendo che Totti gioca anche a quella maniera, soprattutto quando è reduce da infortuni particolari, e soprattutto quando si ricorda quante botte vere invece ha preso nella sua carriera, un minimo di cautela nell'intervenire su di lui credo che sarebbe logica. Perché? Ma perché se è vero che teatralizza e può trarre in inganno, sto seguendo il suo ragionamento, l'arbitro, eviti proprio di metterti in quella situazione. Questi discorsi non sono nuovi, io li trovo, lo dicevo già ieri, particolarmente fastidiosi all'indomani di un 3-0 in cui la Roma ha segnato tre gol, uno più bello dell'altro. Ieri erano, a parer mio, insomma, abbastanza gratuiti, oggi scelga lei l'aggettivo. Da Pisa, Vito, buongiorno. Buongiorno dottor Caranzini, è sempre un piacere. Sì. Niente, io invece esulo un po' dall'argomento arbitri, volevo che lei sappia, a parte il fatto che premetto che non guardo mai di solito le deprimenti amichevoli della nazionale italiana, però stasera c'è Italia-Brasile, per cui mi schiererò ovviamente sul divano anch'io. Però che lei sappia, Italia-Brasile è Italia-Brasile soltanto per noi italiani oppure anche per il popolo brasiliano e per i calciatori brasiliani? No, lo è. Per radio. È bella domanda, Vito, questa. Lo è anche per loro. Non so se abbia la stessa suggestione. Nel senso che per noi il Brasile è sempre stata, cioè per l'Italia il Brasile è sempre stata la miniera dei talenti. È ovvio che noi non siamo una miniera di talenti per i brasiliani, ma per nessuno d'altra parte, perché abbiamo altre caratteristiche, abbiamo anche avuto e abbiamo adesso e avremo anche dei grandi talenti, ma insomma il calcio italiano, il calciatore italiano medio ha altre caratteristiche, insomma, mentre laggiù è pura tecnica e il problema poi è di farli diventare giocatori tattici, da noi si cresce magari invece come giocatori più tattici e poi il problema è rifinire la tecnica dalle nostre parti. Quindi non credo che abbia la stessa suggestione, ma la stessa curiosità e lo stesso fascino sì, perché comunque se loro sono la nazionale più titolata al mondo con cinque coppe del mondo per l'appunto, l'Italia è la seconda con quattro, e quindi credo che anche laggiù lo vivano comunque come un derby del tetto del mondo, insomma, no? Secondo questa espressione coniata, mi pare, per l'occasione. Da Lecce, Walter, buongiorno. Buongiorno, grazie mille per avermi richiamato. Scusi l'emozione, ma sono 5 anni che l'ascolto. Voleva sapere cosa ne pensava della continua sponsorizzazione su Amauri in nazionale. Della continua sponsorizzazione di Amauri in nazionale, sì. Quando secondo me nella Juve non è molto incisivo, e poi è simile a Toni e ci sono altri giocatori che potrebbero avere più spazio. Ma Walter, io dal punto di vista tecnico non sono tanto d'accordo, credo che mi pare che Amauri sia un giocatore che ha un'altra proprietà di palleggio e un'altra personalità rispetto a Toni. Con tutto che Toni, per carità, ma insomma, secondo me è un giocatore di maggior valore a grandi linee. È un problema di opportunità, semmai, non di scelta tecnica. Credo che oggi, se Amauri giocasse nella nazionale italiana, il suo posto lo terrebbe come, e credo che sarebbe più prezioso. Tutto sommato, si potrebbe provare comunque. Io scommetterei che sarebbe più prezioso sia di Totti che di Girardino. Poi magari invece si prova e si scopre che non è così. Ma questo viene dopo. Credo che il problema sia a monte, e sia un problema di opportunità, anche direi di non comportamento suo di Amauri, non particolarmente lineare, ma anche di più, cioè, nel senso che non, insomma, sicuramente poteva pensarci prima, poteva pensarci meglio, poteva agire con un po' più di immediatezza e con un po' più di coerenza, credo anch'io. Da Catania, Renato, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io desidero fare una considerazione. Ho letto e sentito in questi giorni di molti dossier fatti da tante squadre in merito a presunti punti persi per colpa degli arbitri, il Torino, la Fiorentina, la Roma, il Napoli, anche l'Inter di Mourinho sembrerebbe penalizzata dagli arbitri. E diciamo, in mezzo a questi editti di tutti questi presidenti, vorrei invece porre alla sua attenzione il garbato silenzio del mio presidente, che in questo periodo sicuramente non vive un momento molto favorevole con gli arbitri, il Catania, per episodi anche eclatanti, però anche domenica scorsa, intervistato dalle TV locali e anche dalle TV nazionali, il presidente Pulvirenti ha sempre evidenziato il fatto che gli errori, come è giusto che sia, io la penso che lui fanno parte del gioco, ha anche detto che alla fine i gol di quinta, anche se irregolari, in un certo senso erano vantaggiati il Catania, perché grazie a quella munizione poi subito dopo è stato espulso, quindi certo. Mi sembra proprio, e siccome purtroppo sì, è vero, è stato un comportamento incontro tendenza, e di questo gliene va dato atto, sperando che poi non stia sommando tutto per poi esplodere alla maniera appunto di Cairo o di altri patetici presidenti. Però per il momento diamogli atto che il presidente Catania, da questo punto di vista e in questo filotto certamente non felice, si sta comportando con grande senso di responsabilità, con buon senso di responsabilità, questo è vero. Oggi i libri di storia li abbiamo già sfogliati in abbondanza, se per quello, però non è una buona ragione per sacrificare una rubrica di successo e istruttiva come il Sembra Ieri di Nicola Filippone. Sembra Ieri. 10 febbraio 1974. 17ª giornata di campionato. All'Olimpico la Roma di Lidholm pareggia 0-0 contro il Torino di Giagnoni. Il tecnico svedese lancia il 18enne Bruno Conti, destinato a diventare una delle migliori ali di tutti i tempi. E Conti esordisce giocando al fianco di un'altra grande ala, Angelo Domenghini. La trafila che attende il futuro campione del mondo è però ancora lunga. Dopo qualche anno trascorso tra la panchina e la Serie B con la maglia del Genoa, solo a partire dalla stagione 79-80 Conti diventerà un punto fermo della Roma. In maglia giallorossa ha giocato nella sola Serie A 304 gare, segnando 37 reti e ha vinto uno scudetto e 4 Coppe Italia. Brunetto Conti, grande, grande campione. Se si parla di Italia-Brasile, lui non mise la firma in calce a quel 3-2 dell'82, ma fu unanimemente giudicato il miglior giocatore in campo e fu anche giudicato il miglior giocatore dei mondiali dalla commissione dei tecnici, anche se poi il premio che sempre va a chi segna i gol finì a tocco a Paolo Rossi. Sentiamo Giancarlo, ha chiamato da Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, telefono dalle terre che Gianni Brera amava particolarmente, dalla bassa. Uh-huh. Vorrei esternare una mia impressione. Ieri un suo ascoltatore ha detto, insomma, abbastanza facendomi sorridere, che Kakà si subdola, insomma, che non volesse esserci per questa partita. Io invece ho avuto l'impressione, sono tifoso viola, che nell'incontro di Fiorentina-Lazio ci fossero tre giocatori che avessero paura di non potersi essere. E mi spiego meglio. Allora, uno è nel Brasile ed è Felipe Melo, e due sono in Italia, sono Gamberini e Montolivo. Stranamente, secondo me, sono stati tra i peggiori in assoluto dalla partita con la Lazio, e tutti e tre giocano in ruoli fondamentali per la Fiorentina. Non so se è una mia impressione, vorrei sentire il suo parere. La ringrazio. Non saprei, sinceramente non saprei, non Non credo che fosse stata, cioè se questo Brasile-Italia fosse una partita chiave, una partita con dei punti che contano, fosse una sfida, ci si poteva anche fare una riflessione, ma sinceramente un amichevole, per quanto di grande prestigio, per quanto un'occasione per farsi notare da Dunga, mi sembra poi eccessivo. Io credo che la Fiorentina domenica abbia giocato male, non tanto perché pensava ad altro, ma perché ha proprio veramente giocato male e basta, soprattutto in difesa e nel centrocampo arretrato, ma gli era successo già abbastanza recentemente, no? E in maniera anche in maniera più costosa di come è stato domenica, sicché non penserei. Ci sono due notizie d'agenzia, assai poco lusinghiere, due notizie al femminile, ma assai poco lusinghiere entrambe. Una è calcistica. Le giocatrici del Tre Porti, una formazione veneta del campionato femminile di Serie D, che sono ultime in classifica, ci sono al 32esimo della ripresa, hanno cominciato con falli pesanti e ripetuti contro le avversarie e morale, l'arbitro ne ha espulse 5 di queste calciatrici veneziane e con 5 espulsioni la partita è stata automaticamente sospesa, risultato tavolino alle avversarie, ma soprattutto è stato necessario l'intervento a bordo campo di una pattuglia dei carabinieri per sedare la rissa. L'altra è che l'americana Von, la medaglia d'oro della discesa, si è tagliata il pollice della mano destra mentre cercava di stappare una bottiglia di champagne con la sciabola, secondo una affascinante, se è per quello, usanza storica, che è quella di far saltare non solo il tappo ma l'intero collo della bottiglia con un colpo secco di sciabola. Io personalmente l'ho visto fare più di una volta, ma l'ho visto fare più di una volta a gente che è capace. Questa volta evidentemente non lo era e quindi ci ha rimesso un bel pezzo di pollice della mano destra e adesso stanno per entrare in azione i chirurghi. Massimiliano ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buonasera. Dico. Io volevo fare una piccola analisi sul vivaio italiano e su quello brasiliano, sì, sulle loro qualità. Però diciamo, mi ricollego a quello che diceva lei su Amauri, perché secondo me è un bellissimo spunto. Amauri, secondo me, dovrebbe essere, diciamo, se non titolare, sicuramente diciamo nei 22 di qualunque nazionale del mondo, nel senso che è un giocatore con una grande prestanza fisica, colpo di testa, diciamo ottima tecnica, fra i migliori nel suo ruolo. Ma e qui diciamo, secondo me, si arriva all'assurdo. Probabilmente dovrebbe essere fra i 22 anche nel Brasile, se non che nel Brasile c'è una tale quantità di talento che questa è paradossalmente, secondo me, il motivo per cui il Brasile ha vinto 5 campionati del mondo invece che vincerne molti di più. Perché? Perché si privilegia il talento puro, magari poi andando a creare, come ha fatto Dunga, delle classifiche di merito per giocare, dove poi in realtà la squadra così viene composta secondo una classifica di maggior talento e non quella che è un'utilità, perché sicuramente secondo me l'utilità di Brasile, per esempio, manca davanti un colpitore di testa, perché comunque anche lo stesso Adriano non è uno specialista in questo pezzo. Viceversa, noi abbiamo forse una qualità media inferiore, però essendo più poveri si sfruttano meglio le risorse. Non so lei cosa ne pensi. Ma penso che questa è sempre stata un po' la differenza, al di là adesso poi dei colpitori di testa, al di là delle qualità, delle attitudini specifiche che cambiano di volta in volta, di giocatore in generatore, anche di generazione in generazione, questa è sempre stata la differenza storica tra il Brasile e gli europei, non solo gli italiani. Gli italiani in particolare sono sempre stati, lo dicevo già prima, maestri di tattica, insomma, no? Soprattutto se si parla di settori giovanili e di ragazzi che si affacciano alla ribalta, non c'è dubbio che il brasiliano esce con una prepotenza tecnica superiore nella media, e questa superiorità tecnica poi va coniugata con la tattica, col saper stare in campo, con l'essere magari un po' meno egoisti, col pensare agli altri, col insomma, col far parte di una formazione. L'Italia ha proprio, direi, la caratteristica opposta, salvo rarissime eccezioni, no? Perché è difficile da noi vedere giocatori di tecnica istintiva come la loro, però è molto più facile in compenso trovare giocatori che a 18 o 20 anni sono già maturi nel modo di stare in campo, di interpretare la partita, di pensare anche a difendere, non solo ad offendere, che non è un limite, ma è un, direi che è una necessità. Prima dell'ultimo ascoltatore, io sentirei un frammento di Billy Costacurta. Perché? Perché vi dicevo ieri che era la prima sua avventura in panchina, cioè aveva molto puntato, molto investito, ed è finita male. È finita male certamente per i risultati, è finita meglio, nel senso che ha scelto lui di andarsene e quindi di rinunciare a quello che gli sarebbe spettato. Sentiamo Costacurta. C'è un momento in cui uno deve prendere una decisione e credo che, spero che nessuno possa pensare il contrario, in questo momento credo che la cosa migliore per il Mantova sia che io me ne vada. Non so se è la cosa giusta, spero lo sia. È sicuramente una sconfitta, però credo che anche nella carriera di un calciatore ci siano delle sconfitte, l'importante è che quando uno cade abbia voglia di rialzarsi. E questo era Billy Costacurta. C'è ancora un ascoltatore già collegato da Pisa, Maurizio, buongiorno. Buongiorno e grazie di avermi richiamato. Prego. Senta, io vorrei ricollegarmi un po' all'argomento relativo al comportamento dei giocatori e parlare di Ronaldinho, che sì, a me ha stupito in positivo moltissimo, perché è stato corteggiato dal Milan per anni, presentato coi fuochi d'artificio, uomo simbolo, migliaia di abbonamenti, ha tenuto a galla il Milan bene o male nella prima parte del campionato. Quando poi a un certo punto Ancelotti, senza un vero motivo, ha deciso di tenerlo in panchina, lì sono partiti i giornalisti dicendo che non si allenava più, che faceva le nottate, che Kakà giocava male, che Pappo, cioè Ronaldinho era diventata la panacea di tutti i mali del Milan. Ora lui è stato zitto, sta tentando di riconquistarsi il posto, secondo me giocando anche benino come con la regina il primo tempo, e anche professionalmente si sta comportando molto bene, perché vorrei vedere Seedorf se l'avesse trattato come ha trattato Ronaldinho, cosa avrebbe fatto, visto che quando viene sostituito manda palesemente a quel paese tutto e tutto. Non l'ho mai notato sinceramente che Seedorf mandi a quel paese, comunque no, non sistematicamente di sicuro. Maurizio, ciascuno le cose le vede a modo proprio, io la vedo esattamente dalla visuale opposta alla sua, ma insomma non credo che ci si accapiglierà per Ronaldinho, no? Mi auguro perlomeno che non accada. Grazie a lei, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.